La vita di Matilde di Canossa, Granduchessa di Toscana, epilogo storico e nostre considerazioni. Matilde difese le sue terre dalle mire del cugino Enrico IV per oltre 20 anni. Fu lei con i suoi eserciti che comandava personalmente a tenere al sicuro i domini papali. Morto Gregorio, i papi che seguirono non le tributarono gli stessi onori né le lasciarono la stessa libertà di azione sulle terre ereditate da suo padre Bonifacio. Matilde era donna e in quanto tale doveva sposarsi ed eventualmente combattere in nome e per conto di un marito. Infatti, a 43 anni si sposò di nuovo, incoraggiata dal Papa Urbano II, con il sedicenne erede della corona di Baviera. Solo ed esclusivamente per trovare un modo legale di difendere le sue terre e di continuare a governarle. Infatti la legge le imponeva di passare le sue terre al marito. Lei già una volta aveva ignorato tale legge e si era opposta al primo marito Goffredo il Gobbo, che rivendicava il passaggio di mano. Insomma, Matilde, che era da tutti riconosciuta come ottima sovrana, adorata dal suo popolo, per il fatto di essere donna doveva combattere non solo sul fronte militare, ma anche su quello legale, cercando continuamente escamotage che le permettessero di mantenere il governo delle sue terre, le quali, lo ricordiamo, comprendevano la Lombardia, la Toscana, l'Emilia e la Romagna. L'aver donato le sue terre al papato al tempo di Gregorio VII le permise di mantenere il controllo de facto. E per tutta la durata della sua lotta contro Enrico IV, Matilde si schierò sempre a favore del papato in cambio della libertà di governare le sue terre. Quando, dopo tre sconfitte, finalmente Enrico IV morì senza essere riuscito a umiliare la cugina, il trono del Sacro Romano Impero passò a suo figlio Corrado, al quale infine Matilde, cambiando le sue alleanze, confermò i feudi che aveva negato al padre. Corrado, che successe al padre con il nome di Enrico V, dichiarò Matilde viceregina d'Italia. Matilde lasciò il corpo settantenne e fu sepolta nella sua amata San Benedetto in Polirone, in provincia di Mantova. 500 anni dopo, le sue spoglie furono trasportate in Vaticano e tumulate in San Pietro. Si trovò per tutta la vita a far da cuscinetto tra il potere imperiale e quello papale, che continuamente si battevano per il controllo e il dominio temporale. Se Matilde avesse potuto governare senza dover sprecare forze e risorse nella difesa continua militare, chissà che grande sovrana sarebbe stata, poiché le sue terre, nonostante i continui attacchi imperiali, furono molto prospere. Ciò che salta all'occhio a noi della scuola delle donne è il fatto che Matilde dovette sempre combattere su due fronti, non soltanto per proteggere le sue terre da chi le voleva conquistare, ma per difendere i suoi diritti in quanto donna di fare ciò che se fosse stata un uomo nessuno avrebbe messo in dubbio, ovvero regnare sulle sue terre. La sua vicenda ricorda molto quella di altre grandi regine che per tutta la loro vita furono tormentate da chi le voleva far sposare per conservare il regno. Alcune si ribellarono, come Elisabetta I d'Inghilterra, altre rinunciarono al trono piuttosto che alla libertà, come Cristina di Svezia. In Italia, 5 secoli dopo Matilde, un'altra grande donna di Mantova dovette combattere i complotti patriarcali per gran parte della sua vita. Isabella d'Este Gonzaga, che in assenza del marito si trovò a sostituirlo nella guida del Ducato di Mantova. Questa volta il pericolo era il re francese, che voleva impossessarsi del nord Italia, incluso il piccolo ma ricchissimo ducato di Mantova, la cui corte era un fiore all'occhiello della nostra penisola, per la cultura, le arti e le scienze che Isabella incoraggiava. I Borgia, i papi e i re minacciarono l'indipendenza di Mantova per tutta la vita di Isabella, la quale invece, grazie alla sua intelligenza e diplomazia, riuscì a conservarla libera. Ma naturalmente il fatto di essere donna la rendeva colpevole, soprattutto agli occhi dei papi che si succedettero durante i molti anni di reggenza di Isabella, colpevole di essere donna. La vicenda di Isabella Gonzaga è magistralmente raccontata da Maria Bellonci nel romanzo Rinascimento privato, prossimamente in registrazione sul nostro canale. Un ulteriore legame, secondo il fattore risonanza, lega le due donne. Durante il regno di Isabella, Matilde era ancora sepolta a Mantova. Le sue spoglie furono traslate in Vaticano nel 1632. Sicuramente Isabella Gonzaga, che regnò su Mantova un secolo e mezzo prima, non poté non entrare in risonanza con l'eredità politica e spirituale, della grande Matilde.